Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. 303.434. Cominciamo con questo numero, la nostra puntata di oggi. Queste sono le firme che ad oggi contiamo sul sito di Riparte il Futuro. Io sono Flavia. Io sono Ilaria. E naturalmente c'è anche Peppe oggi. Come sempre dagli studi di Radio Città Fujiko, puntuali, come sempre, con una nuova puntata di Lucciole nelle Tenebre. Io sono in quel numerone, voi? Io ho firmato anche, abbiamo firmato alla fine dell'anno scorso una campagna di cui parleremo durante il corso di questa puntata, che vuole puntare l'attenzione su quelle che sono le problematiche relative a un male non così poco comune nel nostro paese, qual è la corruzione. Corruzione che ha portato alla campagna Riparte il Futuro e che oggi stiamo studiando sotto un punto di vista molto diverso, che è quello della... Vogliamo calare l'attenzione su, cioè incentrare la nostra attenzione sulla sanità e sulla corruzione nell'ambito della salute, quindi l'illegalità legata all'ambito della sanità. Legalità e sanità, un binomio che non sempre siamo abituati a sentire, ma che stavolta ci prende proprio d'impatto con la campagna Illuminiamo la Salute, della quale si è parlato lo scorso 17 ottobre a Sant'Orsola nell'aula di dermatologia insieme ai ragazzi del gruppo Prometeo. Ospiti delle due associazioni, Leonardo Ferrante, coordinatore scientifico di Riparte il Futuro, e Ottavio Nicastro, medico di organizzazione ospedaliera presso la regione Emilia-Romagna. È stata anche l'occasione un po' per parlare delle novità normative che circondano il campo della corruzione, a partire dalla legge 190 del 2012, prima legge che parla di corruzione in maniera un po' più approfondita in Italia e che con le sue criticità comunque ci permette ad oggi di avere un responsabile anticorruzione all'interno di ogni pubblica amministrazione, cosa non indifferente qualora però le amministrazioni si facessero carico di nominare questo soggetto. Illegalità e sanità, che comunque è un campo che non si ferma solamente alla corruzione. Ma su questo aspetto ci ritorneremo parlando appunto con Leonardo Ferrante durante la telefonata che ascolteremo dopo. Il tema è molto attuale anche perché i medici rientrano nella cronaca più recente per la questione delle perizie ai carcerati. Un nome celebre che abbiamo sentito negli ultimi tempi è sicuramente quello di Provenzano, a cui è stata negata la revoca del 41 bis. Il potere di revoca chiaramente spetta al Ministero della Giustizia, che non ha accordato questo diciamo che il tribunale è investito da questa questione, non ha voluto metterci più di tanto bocca e ha lasciato appunto che fosse il Ministero della Giustizia a occuparsi della questione, il quale appunto si pronuncerà nei prossimi mesi a seguito della richiesta fatta dall'avvocato di Provenzano su istanze dei familiari, in quanto considerato ormai inadatto al regime carcerario duro. Ma abbiamo anche degli esempi positivi, come quello della clinica privata che è stata sequestrata a Michele Aiello anni fa. Michele Aiello era prestanome di Bernardo Provenzano, nonché proprietario di questa clinica, che è adesso stata utilizzata dall'Istituto Ortopedico Rizzoli, proprio quello di Bologna, per l'apertura di un distaccamento a Bagheria, posto appunto in cui si trovava la clinica. Vi rivelo anche una curiosità che appunto è saltata agli onori della cronaca giusto qualche mese fa, appunto nel marzo 2012, quando a seguito di un periodo in cui il soggetto era stato carcerato, gli sono stati concessi gli arresti domiciliari perché affetto da favismo, perché appunto il carcere di Sulmona, dove lui era detenuto, prevedeva un menù a base di fave. Il soggetto non poteva permettersi di cibarsi di cibi a base di fave, di conseguenza gli sono stati concessi gli arresti domiciliari. Anche qui legalità e sanità, diciamo che tornano a incontrarsi. Concediamoci però adesso un momento ludico con Max Gazzè, con Cara Valentina. E ancora adesso Valentina, Valentina, non è vero, non è vero. Bentornati ai nostri ascoltatori, qui Luce nelle Tenebre a Radio Città Fucico. Ci ha raggiunto in diretta telefonica Leonardo Ferrante, coordinatore scientifico della campagna Riparte il Futuro. Ci sei, Leonardo? Ci sono. Un saluto, Leonardo. Grazie mille del tuo intervento. Ti abbiamo contattato in via esclusiva, ci siamo molto felici di averti al telefono perché tu sei uno dei protagonisti della campagna Riparte il Futuro, di questa grande iniziativa che si è svolta già in periodo di campagna elettorale, ma che adesso sta avendo un suo seguito anche rispetto agli argomenti che ci siamo detti fino ad adesso. Ci spieghi un po' cos'è stato in questi mesi Riparte il Futuro e come si sta proseguendo la campagna? Riparte il Futuro è stato anzitutto una sfida di trasparenza. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato in occasione delle elezioni, coinvolgendo 878 candidati a semplicemente raccontare chi sono. Crediamo che in un paese civile sia fondamentale scegliere le persone che ci andranno a rappresentare, ma soprattutto sapere chi sono queste persone. Per quello abbiamo chiesto loro di raccontarsi, quindi con un curriculum il più possibile completo, con la loro dichiarazione reddituale e patrimoniale, con la loro dichiarazione di conflitti di interessi, con la loro storia giudiziaria e vincolandoli a un impegno che era quello della riforma del 416 ter del codice penale, ossia il reato che disciplina lo scambio elettorale politico mafioso. Si è aperta quindi una seconda stagione riguardante appunto questa riforma. Diciamo che noi siamo partiti dalla cosa più complessa del mondo, cioè quella di fare anticorruzione con il mondo della politica. Lungi da me dire che il mondo della politica è tutto di corrotti, anzi ovviamente ci sono persone di straordinaria bontà, ma in questo momento ancora è lontano un sistema in cui il momento anticorruzione venga davvero percepito da tutti come fondamentale e importante, perché la corruzione non conviene. E questo è ancora molto difficile e ci sono delle logiche ancora che remano contro di questo. Siamo 300.000 firmatari della campagna, non bastiamo, dobbiamo crescere affinché la nostra voce sia ascoltata quanto più possibile. Una strada quindi, sì, ecco, perché mi sembra di capire che è una strada comunque tutta in salita e dura, quindi penso che ci siano stati anche dei passaggi da seguire anche per le prossime settimane, per i prossimi mesi. Certo, a volte quello che mi ripeto, se bastasse una campagna per sconfiggere la corruzione in Italia avremmo fatto. Evidentemente in Italia c'è da sconfiggere una cultura che non è ancora adeguatamente volta all'anticorruzione, e quello che noi stiamo facendo in prima istanza è fare questo, informare ogni giorno su quanto costa la corruzione nelle nostre vite, su quanto è pesante, su quanto ci toglie risorse economiche, ma anche risorse morali, speranze. Non è un caso che più corruzione significa meno fiducia nei confronti delle istituzioni, non a caso significa più morti sul lavoro, non a caso significa meno risorse economiche, meno investimenti in quelli che sono i settori della ricerca e dello sviluppo. Queste sono tutte cose scientificamente dimostrate. Se è difficile stimare i costi della corruzione, si parla di 60 miliardi, ma è, diciamo, un numero pedagogico solo per rendere un ordine di grandezza di quanto pesante è il fenomeno. In realtà appunto la corruzione ci toglie molto di più. E bisogna anzitutto partire da una creazione di una profonda cultura della corruzione, avendo il coraggio anche di parlare linguaggi diversi. E questa è la grande sfida di Riparte il Futuro: voler parlare a tutti, da chi ha una tradizione più sociale, a chi ha uno spirito magari imprenditoriale, a chi magari appunto ha una sensibilità più rivolta a quello che è il terzo settore. Vogliamo parlare a tutti perché il messaggio deve essere forte e chiaro: la corruzione fa male a tutti. Parlare a tutti e parlare con linguaggi diversi, questa è una regola che ci siamo dati anche noi del presidio universitario qui a Bologna, tant'è che lo scorso venerdì, e c'eri anche tu presente, abbiamo cercato di parlare a quelli che sono i futuri operatori del mondo sanitario, sociosanitario, futuri medici, per chiedere anche a loro di porre l'attenzione su queste tematiche, anche se poi magari non li riguarderanno direttamente da vicino, quantomeno non adesso che stanno ancora studiando il funzionamento del corpo umano, poi forse magari un giorno si troveranno a studiare il funzionamento appunto della macchina sanitaria, che non è esattamente il massimo della trasparenza, almeno non lo è stata fino ad adesso, e quindi si vuole cercare con la campagna Illuminiamo la Salute di far qualcosa. Guarda, la corruzione è un gioco a tre: c'è il corrotto, c'è il corruttore, c'è chi ne perde. Nella figura del corrotto rientrano tutti quelli che ricoprono incarichi pubblici, ma anche quelli che svolgono degli incarichi per conto dello Stato, e quindi penso alla pubblica amministrazione. Noi in Italia abbiamo la fortuna di avere un servizio sanitario nazionale importante, degno, che ci dà un ottimo diritto alla salute, e questo va difeso. Il medico chi è? Il medico è anche un dipendente pubblico, e quindi rischia nel gioco della corruzione appunto di diventare appunto un corrotto. Questa è una ragnatela che fortunatamente riguarda poche persone di cattiva qualità, ma i cui effetti cadono a cascata su tutto il sistema e su ciascuno di noi. Se si perde un euro nella sanità, non è solo un euro perso, è un livello di sanità, un livello di salute pubblica che si abbassa. Una persona malata, una società meno sana. Per questo bisogna garantire una salute sana, un sistema sanitario sano, prevenendo tutte quelle che sono le forme della corruzione. Ecco perché Riparte il Futuro appunto parla sì al mondo della politica, ma vuole parlare anche al mondo della pubblica amministrazione. Quindi, cominciando dalla ASL, ed ecco che ci intrecciamo con il progetto Illuminiamo la Salute, ma vogliamo andare anche verso gli enti locali, quindi i comuni, le regioni, le province, tutte le realtà di prossimità al cittadino, e quindi andare a tutti. Siccome in Italia la corruzione appunto è sistemica, vogliamo andare a tutti i livelli della vita economica, politica e sociale del paese. Vogliamo andare anche verso gli imprenditori, perché è importante avere imprenditori sani, che garantiscono un'economia sana e che sappiano opporsi alle logiche corruttive, approfittare diciamo delle cose buone, quindi puntare sull'innovazione, sullo sviluppo, sull'intelligenza, sulla capacità, e non sui circuiti corruttivi che creano solamente fuga dei cervelli, disoccupazione e molte volte anche mancanza di speranza. Ed è a tutti i livelli che anche noi ci rivolgiamo, tant'è che dai microfoni di qui di Radio Città Fujiko vogliamo anche dare uno spunto di quello che sarà il nostro lavoro anche nei prossimi mesi, perché appunto in collegamento con la campagna Illuminiamo la Salute anche noi ci daremo da fare e aderiremo non solo alla campagna in modo formale, ma anzi vogliamo anche noi di andarci a districare fra quelli che sono i meandri della sanità anche qui in Emilia Romagna. Io ringrazio. Voglio chiudere con una frase di Tolstoi, perdonami. Vai pure. Tolstoi diceva: se i corrotti si mettono insieme, chi vuole combattere la corruzione deve fare lo stesso. Quindi la prima cosa che ciascuno di noi deve fare è avere la forza anche un po' di rinunciare ai propri piccoli circuiti e avere la capacità di mettersi in rete come state facendo voi. E vi ringrazio per il vostro lavoro. Grazie a te Leonardo, adesso vi lasciamo a Mika B. Hinson con Yard of Blonde Girls. Through the yard of blonde girls, oh, through the river and the sea, gold sharks glittering, a tree of white breaks the earth, the streets where Lola played, very sexy, very sexy, okay, okay. Fear we may come, oh, oh, oh. Fear we may come, oh, oh, oh. Fear we may come, oh, oh, oh. Fear we may come, so run, run, run, run, oh, oh, oh. It's in your heart. It's in your heart, your beauty. And even in this world of lies, there's purity. You've got innocence in your eyes. Even in this world of lies, you're still hopeful, very sexy. Okay, okay. Fear we may come, oh, oh, oh. We may come, oh, oh, oh. Here we may come, oh, oh, oh. Here we may come, so run. sea, gold sharks glittering, a street of white breaks the earth, the streets where Lola play, very sexy, very sexy, okay, okay, here we may come. C'è chi dà la colpa alle piene di primavera, al peso di un grassone che viaggiava in autocorriera. Io non mi meraviglio che il ponte sia crollato, perché l'avevano fatto di cemento amato. Invece doveva essere armato, si intende, ma la R c'è sempre, qualcuno che se la prende. Il cemento senza R, oppure con l'R moscia, fa il pilone deboluccio e l'arcata troppo floscia. In conclusione, il ponte è colato a picco e il ladro di R è diventato ricco. Passeggia per la città, va al mare d'estate e in tasca li tintinnano le R rubate. Oggi Buffier si fa infantile, non saprei. Sì, che bello. È Flavia non voleva. È con Gianni Rodari che abbiamo voluto cominciare la nostra rubrica. Peppe ci ha visto edilizia, speculazione edilizia, abusivismo. Saluto pesantone. È che tra l'altro nella filastrocca si parla in realtà di tutto questo, ma naturalmente in chiave molto più semplicistica e banale. Anche perché penso che i bambini delle elementari non se ne intendano perché troppo. Parliamo di Gianni Rodari oggi. Gianni Rodari innanzitutto è stato un grande scrittore, giornalista e pedagogo italiano, morto nel 1980. Parliamo di lui perché lui ha inventato la grammatica della fantasia e ha trovato, è stato forse il primo che è riuscito a trovare un canale semplice di comunicazione che lo legasse in maniera molto diretta e rapida al mondo dei bambini. Che bellezza! Proprio comunque a quel mondo così vulnerabile, in quanto se si vuole far passare un certo messaggio, naturalmente distorto, a chi ci si può rivolgere se non appunto ai bambini, che proprio a quel vulnerabile mondo che necessita di un'attenzione, di una cura maggiore in virtù della loro educazione, della loro crescita, in quanto facilmente manipolabili se si vuol far passare un messaggio in un modo piuttosto che in un altro. E appunto permettere con l'inganno, con la cattiveria, con la malizia, di farli crescere, perché no, di diventare appunto abitanti di quel mondo, di quella ragnatela fitta della corruzione di cui oggi abbiamo parlato appunto. E quindi perché no, con questa filastrocca in realtà un messaggio profondo viene mandato. E siamo arrivati ai saluti anche oggi. Prima di salutarci ricordiamo che domani alle 15 in Piazza del Nettuno noi del Presidio Universitario Libera Bologna aderiamo con l'AMPI ad una iniziativa con la Costituzione il nostro futuro, un'iniziativa a cui appunto invitiamo tutti a partecipare con dei meravigliosi fiori alla quale attaccheremo gli articoli della nostra Costituzione, e interviene anche Carlos Muraglia, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. E con Love is All I Got dei Crystal Fighters vi mando un bacione grande grande grande, ci vediamo venerdì prossimo. Ciao. Ciao. Love is all I got now, love is all I got, I can't live, love is all I got, only love in my life, love is all. Love is all I got, love is all I got, lived life with love and trust that love will come down to earth and save us all. Love is all I got, I can't live with everything I've lost because love will come to save us all. So save us. Wake your soul with love in the morning, feed your soul with love till the evening, expand your soul with love on the weekend, cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning, feed your soul with love in the evening, expand your soul with love on the weekend, cause love is all I got. So wake your soul with love in the morning, feed your soul with love in the evening, expand your soul with love on the weekend, cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning, feed your soul with love in the evening, expand your soul with love on the weekend, cause love is all I got. My darling, I can give you what you want if what you want is love. Darling, I can give you what you want. what you want is love. So save our soul. So save our soul.